Io e lui siamo una cosa sola, e i miracoli che io faccio, le profezie che io compio, danno testimonianza che prima che Abramo fosse, io sono Yah. Io sono Yah. Cos'è che dice? Non uccidere. Cos'è che dice? Non uccidere. Ma io ti dico, ama il tuo nemico. Ma io ti dico, ama il tuo nemico. Cos'è che dice? Adora solo Dio. Cos'è che dice? Adora solo Dio. Ma io ti dico, Dio è il padre mio. Ma io ti dico, Dio è il padre mio. Io sono io. Sono ya. Io sono Yah, io sono Yah, Mosè che dice, non rubare mai, Mosè che dice, non rubare mai, ma io ti dico dona ciò che hai, ma io ti dico dona ciò che hai, Mosè che dice, non mentire. Mosè che dice? Non mentire mai. Ma io ti dico credi in me vivrai. Ma io ti dico credi in me vivrai. Io sono Yah. Io sono Yah. Amatevi gli uni gli altri, voi che io, perché io ho amato voi. Hai amato noi. Io sono Yah. Io sono Yah. Baby.